una vita che non lo vedo. Eppure è un cacciatore incallito, malato di caccia, che giovedì non si lavora, meno male, già c'hai i figli in officina, ma il giovedì è sacro, è sacro. E infatti lì in banchina poi in estate porta il prosciutto di cinghiale, la salsiccia di cinghiale, ed è lui che alla fine organizza la pecora, io e lui ci quotiamo, però poi il pane lo porterà da paese, porta il fornellone, il marmittone, lì quella pentola grande grande, è lui che la organizza perché lui che la sa cucinare. Ed è in gamba. Il giorno che sono andato a Bonorva non riuscivo più a andarmene. Già lo immagino, no, a Bonorva già sono ospitali per quello. Quando arrivi lì il vino c'è sempre e anche da mangiare, capito? E va bene, dai, già sono belle cose. E io ho tanti amici ancora a Bonorva e ci vado poco perché ormai ci ho perso l'abitudine, capito? Però anche io quando vado lì ho paura ad andare perché non ti rilasciano più, capito? Poi c'è sempre il rischio che incontri qualche pattuglia con l'alcol test e ti prende la patente. È proprio quello la paura, andare via da lì, perché poi subito appresso trovi l'incrocio di Cossoine ed è un rischio. Scendi più avanti di Cossoine e c'è il distributore Agip e spesso c'è la pattuglia. E c'è la pattuglia a Vivio di Mores. Insomma, è una trappola rientrare da lì se hai bevuto qualcosa. Sì. Infatti io solitamente prima quando ci bazzicavo di più a Bonorva avevo la casa e quindi quando avevo problemi mi buttavo lì a letto e non rischiavo. Poi abbiamo venduto tutto e quindi casa non ne ho più, ce l'aveva la mia ex moglie perché anche lì era di Bonorva, però ovviamente è roba sua, c'era la mamma, gliel'avevo tutta messa a posto quella casa, sistemata, lei la voleva vendere ma non riesce a venderla. Ma se ti vuoi comprare una casa a Bonorva con 20.000 euro ti compri una signora a casa. Lo so, però chi non è nato in certi contesti rimane un pesce fuor d'acqua. Io ho la mia compagna che è del Goceano, di un paese del Goceano, è bello come quello, a detta sua non ce n'è. Io mi chiedo come si faccia a stare in un paesino così piccolo. Bonorva è già una realtà più grande, ma certi paesini che sono così piccoli che per me, nato a Sassari, sarebbe impossibile vivere. Io ci sono nato in paese, ci ho vissuto sino a quando avevo 20 anni e poi dopo i 20 anni però per lavoro ero sempre a Sassari, sempre sono stato a Sassari e per me Sassari e poi il mio mare è diventato Platamona, Alghero, capito? Però a vivere lo stesso, come mi sono sposato sono venuto qua a Sassari perché ho sempre lavorato qua. Poi io ho lavorato 10 anni al Banco di Sardegna, al centro elaborazione dati, poi lì hanno chiuso tutto, non ci hanno assunto, abbiamo fatto causa, c'era la possibilità, abbiamo vinto di andare però a lavorare a Parma perché noi eravamo terminalisti. E quindi niente, ho mollato tutto, ci abbiamo preso il risarcimento danni e mi sono messo a fare da altro. E poi adesso sono 20 anni che lavoro a Olbia, dal 2006 sono all'aeroporto e altri 5 anni me ne vado in pensione e buonanotte. Io qualche anno in più, perché i miei calcoli dovrebbero essere 7, però dobbiamo ancora stringere i denti. Esatto, infatti l'importante è avere la salute e arrivare sino alla fine a lavorare, perché comunque il lavoro già un po' ti distrae, capito? Io ci vado volentieri, sempre andato volentieri a lavorare, per carità, non mi sono mai tirato indietro, sono uno di quelli che ha sempre fatto poche assenze, capito? Solo quando sono mancato è perché stavo male, oppure avevo esigenze proprio di famiglia, eccetera. Altrimenti io al lavoro ci sono sempre andato volentieri. Adesso un po' la verità già mi pesa un po' il viaggio, anche se arrivare all'aeroporto è un gioco, capito? È tutto autostrada, insomma, e fai veloce e la mattina poi con i turni che facciamo non trovo traffico, la mattina presto, poi usciamo la sera tardi. D'estate è un po' noiosetto per il traffico perché trovi gente in giro sino a tardi, capito? Però tutto sommato, dai, non mi posso lamentare, già ci pagano bene, insomma abbiamo tutto, ci danno le divise da lavoro e noi non spendiamo niente per andare a lavorare, ci danno buon impasto e tutto quanto, quindi per quello spero di riuscire ad arrivarci sano a fare altri 5 anni e poi me ne andrò in pensione. A dedicarti alla frequenza. E poi a voglia che ne avrò di tempo a stare in frequenza. Spero di riuscire a mettere l'antenna nel tetto, perché senza l'antenna sul tetto, insomma, non è molto soddisfacente la cosa, capito? Io ero abituato sempre a avere l'antenna sul tetto, anche a Bonorva, lì avevo un terrazzo grande, capito? Avevo il terrazzo coperto e quello scoperto. In quello scoperto avevo messo un dipolo autocostruito, capito? Invertito a V, era omnidirezionale, ma sparavo da Bonorva, io parlavo tranquillamente con Badesi, Castelsardo, capito? Tutta la zona di Olbia, un sacco di posti, arrivavo a Sassari, io parlavo, mi ricordo di aver parlato con Giulio tante volte, ma ti sto parlando di forse più di 40 anni fa, poi avevo mollato tutto e poi 7-8 anni fa, chissà perché, avevo trovato una vecchia radio, ho detto esci, l'attacco a vedere se funziona, e avevo visto che c'era qualcuno in frequenza a Sassari, allora mi ero subito organizzato e mi avevo messo prima un dipolo dell'Assirio, un dipolo di quelli in alluminio, capito? E con quello andavo bene, capito? Andavo benissimo, anche con quell'antenna lì non avevo problemi di onde stazionarie, niente. Poi Claudio mi aveva venduto lui quell'antenna della Game Master, come si chiama, la J-Pol, che quella è una 7 ottavi d'onda e con quella ancora meglio, e rossa, zero, capito, scendevo, salivo nelle varie bande, sempre zero mi dava, capito, e arrivavo dappertutto, arrivavo da qua vicino, io abitavo su più in alto in via Dau, però avevo l'antenna, dove l'avevo messa era su un palazzo di 5 piani, su un torrino che ci potevi salire, con un palo da 2 metri, l'antenna poi era 6 metri e passa, e quindi da lì ero, capito, vedevo il mare, vedevo tutto, quindi aperto, non avevo palazzi più alti vicino, capito, era uno dei palazzi più alti, e arrivavo dappertutto, arrivavo a Bonanna, Rautieri, Mores, capito, è che non c'è più nessuno ormai in quei posti, con Pattada ho parlato, poi collegamenti di X ne ho fatto tanti, capito, Indonesia, Stati Uniti, America. Sì, più o meno come messa la mia antenna, che il palazzo è di 5 piani e io abito al quinto, sopra c'è il lastrico solare col torrino dei motori dell'ascensore e io ho il palo attaccato a quel torrino che esce 2 metri e poi parte l'antenna da 6 metri. E pensa che io da sopra il torrino con ricatto, col tripiede e la macchina fotografica col cannocchiale ho fotografato addirittura la torretta della Pelosa e ho una bella vista, vedo le case di Sennuri, vedo tutta Predagnedda con Porto Torres, tutta la Sinara, Fiume Santo, Spintino, Monte Doglia, dietro alla spalle c'ho Osi, giro, ho visto le case di Ussi, Tissi, vedo tutta la Nurra, per cui anche io sono in posizione abbastanza favorevole. Così già è bello, così già è bello. Io lo stesso avevo il torrino dell'ascensore dove c'era il vaso d'espansione, no? I vecchi impianti di una volta. E da una parte c'erano le antenne TV, e per altri due lati c'era una porticina dove dentro c'era un piccolo serbatoio e gli altri due lati erano liberi, per cui avevo messo lì un palo grosso in, da 2 metri, capito? Fissato con delle zanche al muro, avevo bucato il muro da parte in parte con praticamente avevo delle piastre d'acciaio e poi bulloni lunghi e dadi, ho stretto tutto. L'antenna non si muoveva neanche se tirava al maestrale, non ho messo mai tiranti, nulla, la vedevo che fletteva, ma giusto la parte superiore, perché comunque era bella robusta quell'antenna lì, ce l'ho smontata. E invece in questo palazzo dove abito adesso purtroppo non c'è un torrino, ma la cosa più tragica è che non c'è neanche un posto dove salire sul tetto, quindi devo rompere le scatole ai proprietari degli ultimi piani, capito? E quella, la cosa che mi scoccia è quella, se no l'avrei già messa l'antenna sul tetto, capito Luca? Ma c'è un tetto con tegole oppure c'è un lastrico solare? No, purtroppo c'è tetto con tegole, capito? Quindi non so neanche dove sono messe le antenne perché non riesco a vederle, capito? Il palazzo già è anche alto da un lato, dalla parte della strada dove abito io sembra basso, io sono al secondo piano e sopra di me c'è solo una mansardina, però nell'altro lato del palazzo ci sono altri due piani e credo che le antenne siano messe sopra quei piani lì, capito? Praticamente è un palazzo di 4 piani, capito? Da una parte 2 piani più mansarda e un po' sfasato, capito? E dall'altra parte ci sono altri 4 piani, capito? E niente, adesso per il periodo estivo vedo se c'è la possibilità di salire, chiederò il proprietario, già lo conosco, un proprietario, e se chiederò dove sono fissate le antenne, se c'è un posto, se lì c'è la possibilità di mettere un palo, ci metterò un'antenna mia e basta, e poi vedo un po', altrimenti dovrò stare così. Il cavo eventualmente lo fai scendere in facciata così in bella vista? No, lo faccio scendere, siccome io ho un terrazzo bello grande ed è a L, mi prende 2 vie, io ho il terrazzo che mi va su via Pola e l'altra parte del terrazzo mi va su via Brunizzetta, quindi io lo farei scendere nella facciata di via Pola che mi rimane all'interno del cortile, quindi non nella facciata principale e non ci sono neanche finestre lì, quindi se dal tetto riesco a mettere l'antenna lo farei scendere da lì e poi mi arriva al terrazzo, capito? E dovrebbero essere una 20 metri, 15 metri, non di più. Ho capito. Ma mi stavo leggendo un po' di normativa sul diritto d'antenna ed è un po' controversa, perché sì, la legge dice che esiste il diritto di antenna, per cui uno ha il diritto di collocarla laddove però non va a interferire negli spazi comuni, ma diciamo che se c'è una terrazza condominiale, un torrino condominiale eccetera, si ha diritto di metterla. Diverso è se è tutta una proprietà privata, dove c'è sì una servitù di passaggio per le antenne condominiali, ma non so se in quel caso uno col CB o un radioamatore può avere accesso su a mettere le sue antenne là dove è un'area privata, dove, cioè, non so se uno lo può mettere su una terrazza privata e a dire a diritti di antenna laddove però me la stai mettendo dentro casa. Non so bene come funzioni. Lo so, devo vedere. Pensa che prima di comprare questo di appartamento ne avevo visto un altro in via degli Astronauti, proprio sulla rotatoria, capito? E lì era una mansarda da 70 metri quadri. nuova, bellina, con un terrazzo panoramico, dove lì avrei potuto proprio mettere quello che volevo, perché era terrazzo tuo e quindi mi avrei messo lì un tubo, capito? E avrei messo quell'antenna lì, potevo mettere un dipolo, potevo mettere quello che volevo. Però poi non l'ho preso, i miei figli mi hanno sconsigliato, va la mansarda, poi d'inverno c'è più freddo, devi stare lì a riscaldare, e poi c'era il fatto ti sbatti la testa, qua e là, non era, era una mansarda anche abbastanza alta, non era, ed era anche nuova, e, però poi la mia paura è stata proprio per quello, magari d'estate c'è troppo caldo, devi stare col condizionatore sempre acceso, e allora ho preferito prendere un appartamento in un piano intermedio, capito? Sì, sì, sì, sì, è vero, perché io sopra c'ho l'attico solare, che saranno 100 metri quadri di terrazza, la parte restante dell'attico invece c'ho la mansarda, che è chiusa, disabitata, nel senso che è lì, un periodo ci ha abitato mio fratello, che saranno utili 80 metri quadri, ma come parti basse di estensione sono 140 metri quadri, e che le falde sono, mi sembra, a 35 gradi, per cui abbiamo chiuso a 80 centimetri, abbiamo chiuso per non arrivare proprio a zero. E in estate è un forno, perché ci batte il sole, sì che fai le intercappedine, il tetto ventilato, tutto quello che vuoi, ma sei esposto al sole 12 ore. E in inverno è la calotta artica, perché c'è freddo. Io a casa mia, che sono sotto l'attico solare, soffro la stessa cosa, perché l'attico non è coibentato, e quindi in inverno c'ho la volta che mi dà freddo e in estate c'ho la volta che diventa calda e mi dà calore. E allora vai di condizionatori. Sì, invece qua dove sono io, nei piani intermedi, io praticamente ci abito già più di un anno, ho fatto già un altro inverno, con praticamente 400 euro l'anno mi pago il gas per il riscaldamento, capito? E quindi pago molto meno di quello che pagavo nell'altra casa dove abitavo con tutta la famiglia, capito? Qua per scaldarti il bello è che te lo accendi quando vuoi tu, perché è autonomo, ho il riscaldamento radiante, non ho i termosifoni a casa, ma si scalda il pavimento, perché è una palazzina costruita 15 anni fa, quindi è di recente costruzione, non ci devi fare niente in facciata, il tetto ancora nuovo, ho il garage, capito? Io ho puntato più a queste cose, poi non stavo pensando alla radio e alle antenne, e quindi poi mi sono pentito, però, perché magari non ho avuto molto tempo, altrimenti avrei potuto cercarmi magari una casa con un piano più alto e con un terrazzo, sai, qualcosa del genere. Però va bene, dai, già sono contento lo stesso, adesso non starò lì a... Adesso con quest'antennino sto andando molto meglio, arrivo in tutta la città, mi sentono un po' dappertutto, devo provare se riesco a farmi sentire anche verso Sorso, non lo so, non ho sentito più nessuno, per cui non ho riscontri, ma avrò modo di provarla, Luca. Ma sono sicuro di sì che arrivi a Sorso, perché comunque qua arrivi bene, bisognerebbe vedere se San Pi si affaccia. Sì, sì, no, ma a me basta giusto per fare un po' di chiacchiera, come stiamo facendo oggi noi, parlando un po' di tutto, capito? E ogni tanto mi fa piacere, insomma, fare quattro chiacchiere e niente, quindi bene o male, per adesso sono sistemato benino, dai. Spero poi di riuscire a metterla sul tetto. Al limite se mi dicono, perché questa antenna lunga, eccetera, metto un dipolo che ce l'ho anche quello pronto, a V invertita, omnidirezionale, e già sparerò anche con quello. Però un pezzo di tubo lo devo per forza mettere, e poi mi servono due punti per fissare i due bracci, capito? È un po' più complicato, però è meno visibile delle antenne. Meno invasivo. Esatto, esatto. Oh Luca, io devo fare alcune cosine in cucina adesso, che inizio a impostarmi un po' la cena, così verso le 8:30 qui ceno, quindi faccio un attimo di bianco, un 20 minuti, mezz'ora, capito che mi devo sciacquare delle cosette e poi riprendo. Immagino che anche tu ne abbia di cose da fare, dai, ci sentiamo più tardi, tanto entrerà anche qualcun altro. Sì, sì, vai tranquillo, anche io mi sbrigo un po' di commissioni, rimango in QRX, appena sento qualcuno saluto. Sì, va bene, grazie del QSO Luca, ci sentiamo più tardi, se va bene, o alle prossime, dai, a più tardi, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. E chi è? Me. E gatto, c'è Bascio? Sì, Pio. Ora. Sette volte appena sei arrivato. Che, avanti. Che, Tonino, da questa parte. Ciao Tonino, Luca da questa parte. Ciao Luca, tu già arrivi forte. Ciao Luca. Tu già arrivi forte Luca. E nel mio piccolo, ma è solo grazie all'antenna. Cosa devo dire io che sono fuori Sassari? E c'ho un'antenna che ho pagato 60 euro, qua 50 anni. E anche io ho preso l'antenna nuova e l'ho pagata a 63 euro. Però mi stai arrivando comunque 9,20, eh. Io sono al tiro qua, rispetto, prima di San Camillo da vita. Quindi ciò se mi te ne pago l'antenna, volevo mettere un troniccio 20 metri, grazie, me lo fanno permettere, me lo metti lì. Ma sempre con chissà antenna se scegli, buonasera. Ciao già, sì, sempre con la famosa antenna, quella di lì, piccolini in alluminio, mi dire, oh, sai quanti borracci si appuccia, le tre, la neve tronice adesso me la spacchi, adesso quelle in alluminio pieno e quindi non fate nulla. Ma c'è la Mantova, perché non la vedi? La Mantova? Non me la dà la corriera con la Mantova. Non ce l'hai più la Mantova? Oh, ti è passata, la Mantova. Se non sono comprenduto, la musica, boh. Comunque buonasera a tutti. Ho sentito a Luca, avanti Luca, poi mi dirà se c'è altra gente. Ciao, buonasera. C'era Carlo, ma è andato in bianco perché deve svolgere commissioni lì a casa, insomma, sta rassettando un po', ha detto che sarebbe rientrato. Dopodiché siete gli unici due che ho sentito stasera. Ah, cappa. Vabbè. Meglio un po' che va voi. Ho provato anche stamattina, ma non c'è proprio nessuno. Io sono a casa in malattia, come vi ho detto ieri, e ho provato, riprovato, zero, calma piatta. Solamente poco fa è entrato Carlo, io avevo lasciato acceso e l'ho sentito dall'altra camera. Ah, io stamattina, cosa ti posso dire, verso le 10 così, ho acceso in macchina, e non c'era nessuno, ho fatto chiamata 2 o 3 volte, anche di più, 3 o 4 volte, e non ha risposto nessuno. Non so tu a che ora sei entrato, però io c'ero, ero con la macchina, diciamo, ho provato a chiamare ma non rispondevano. No, non mi ricordo che ora fosse. Avanti Torino, raccontaci. Cosa? A Torino a raccontarci qualcosa. Al telefono. Avrei sentito che stava rispondendo al telefono. Ah no, mi è sfuggito. Ho saltato quel passaggio. Capo. No, stavo rispondendo, si sente la musichetta pure. Mentre parlavo non si capiva nulla perché c'era la musichetta del telefono. Quella, la musica di sottofondo già l'ho sentita, ma non avevo distinto che fosse quella del telefonino. Sì, l'ha detto solo al telefono. Sì, vabbè, ci riprenderà. Se non è che qualche donna che lo trattiene molto al telefono. E quelle sono spese. Ah, te, io c'ho un'amica che quando mi telefona, ui, non mi molla più. Passa da un argomento all'altro. E io no, con le braccia che mi sono scese. Lo guru in capo. E magari ha bisogno di chiacchierare. Sì, quello sì, però l'altra volta mi ha trattenuto, guardato quanto ci siamo stati, un'ora e 22 minuti. Icca, l'orecchio rosso ti ha fatto. Ma che ne dai. No, io già lo metto davanti il telefono, ma lo metto davanti come il baracchino, così, di modo che non mi faccia l'orecchio rosso. Io faccio in ufficio una specie di cuffie con l'archetto, solamente una cuffia sull'orecchio sinistro e il braccetto del microfono, così riesco a parlare lavorando e a scrivere a computer, altrimenti una mano te la impegna sempre, e con quello è Bluetooth e mi viene benissimo. Ascolta, ma tu stai lavorando da casa adesso? No, mi hanno messo in malattia 3 giorni a riposo, di solito io quando sono in malattia comunque lavoro da casa perché mi collego al mio computer dell'ufficio, invece le mie colleghe me l'hanno spento di proposito perché mi hanno ordinato il riposo e mi hanno detto non devi lavorare, ti hanno dato il riposo, non ti collegare, e io ho detto vabbè, ma sono annoiato, almeno faccio qualcosa. No, adesso andiamo nel tuo ufficio e ti spegniamo il computer, così non ti puoi neanche collegare, e così hanno fatto. E probabilmente ci tengono, dai. Sanno che questo, diciamo che lo stress non passa 3 giorni, però almeno un po' la spina te la fanno staccare, dai. Beh sì, sono 3 giorni, poi ci unisco sabato e domenica e alla fine mi ho fatto quasi una settimana a casa e un po' ho ricaricato le pile. Lo sai che cosa c'è? Che dopo quando torni sempre trovi la stessa candonga. Si ripete di nuovo, magari ti fanno nervosire nuovamente, ma tu te devi far scivolare tutto addosso. Quando uno si rifiuta il coso, il principale, boh, basta, poi la principale di la luce. Ma sono abituati a sentire più a me del principale, ma comunque la soluzione bisognerà trovarla per forza di cose perché non mi devo ammalare per loro, per cui sì, invece di alzare le voci alzo la penna e inizio a fare lettere di richiamo e poi vediamo. Intanto certi discorsi si recepiscono solo quando tocchi il portafoglio alle persone. Quando iniziano a rompere le balle e gli faccio le lettere di contestazione, gli do 5 giorni di sospensione, 5 giorni di sospensione corrispondono a una settimana lavorativa, e quando uno poi porta lo stipendio a casa che gli mancano 5 giorni, lo sta portando i 3/4 dello stipendio. E vi darai la bacia nella cresta a chi intanto comprende solamente chi ha ragione, la ragione è di no. Sì, ritocchi il cuore, ritocchi su, è normale. Vabbè, si lavora per i soldi, però bisogna anche rispettare certe regole, certi ordini, eccetera. Si sa che ci sono sempre persone superiori e bisogna dare retta a quelle persone. Ma non sono tutti, ci sono quelli ribelli, ignoranti, anche molti sono ignoranti, proprio lo fanno per ignoranza, essere a contraddire le cose. Il mio titolare, che ora non c'è più, ci sono i figli, ma lui diceva agli autisti che rompevano le balle, vai, già ti bisciglia la matita. E cosa vuol dire? Che gli tagliava le ore, gli tagliava lo stipendio e gli faceva lo sconto sul totale. Già ti bisciglia la matita. E bisogna adottare quella tecnica. Il portatore è il principale. No, Sassa Reso in Chiavi, l'attività era Porto Torres, ma lui era super sassarese, non sassarese, super sassarese. E ti bisciglia la matita, voleva dire non tagliare le ore, tagliarle nel senso non che le ore che facevano non gliele pagava, ci mancherebbe, ma hai una varietà di lavori che ti consente di dare i lavori con la polpa agli autisti più meritevoli. E il lavoro con le ossa a Ruzzica a quelli che rompono di più le palle, quindi viaggi in linea dove sono viaggi lunghi a un solo scarico, mandi gli autisti più meritevoli a fare viaggetti nei dintorni con aggancia, sgancia, solleva, sali, scendi, fai fare ginnastica a quelli che rompono le palle, tutto lì. Poi chiaramente viaggi lunghi durano di più e sono pagati a ore e guadagnano meglio, prendono magari doppia trasferta, eccetera. Quelli fatti in zona, a Fiume Santo, a la cava di Salidero, la cava di Bentonite di Salidero, o altri lavori a Monte Rosè, lavoretti del genere, stanno lavorando in ambito comunale e prendono molto ma molto di meno. E quella è che gli puoi far capire come funzionano le cose. Li tratti certi da autisti, li metti in serie A e altri li metti in serie B. I più meritevoli si prendono il lavoro migliore, normale. Ci sono sempre quelli ribelli, quelli, io avevo un collega che tutte le cose aveva da dire, diceva fare una cosa, ma vanno Gianni, lui diceva devi andare tu, basta, Gianni deve fare un'altra cosa, vai tu e basta, e zitto. Sì, ma ci sono quelli che discuti perché la discussione è sempre costruttiva, ci sono quelli che invece rompono le scatole e allora gli dici lo vuoi fare? No, ti sto rifiutando, va bene, allora domani stai a casa e ci prende la lettera, voglio vedere alla terza lettera se è licenziabile, ti sto rifiutando di fare il lavoro, altro non ti posso dire, quello ti sto assegnando. Sì, ma devi applicare un articolo di legge per licenziarlo, lo so di mio, perché una volta a me mi avevano dato le ferie e poi hanno detto che me le avevo prese arbitrariamente, capito? Non stanno. E mi ha mandato una lettera a casa, sono andato al sindacato e mi ha detto di usarsela come carta igienica, che non vale a niente questa qua, se non c'è un articolo di legge se la può fregare dove dico io. No, vabbè, in quella materia già sono ferrato perché il nostro contratto lo conosco bene, chi fa quel tipo di contestazioni disciplinari sono io, ed è tutto a termine di legge, con articoli, con tempi di consegna, tempi di attesa della risposta da parte del dipendente, no, quello applichiamo tutto a norma di legge, anche perché tutti i nostri autisti sono sindacalizzati, per cui la prima cosa portano la lettera al sindacato e fanno rispondere dal sindacato, quello sì, ma quando sei sul giusto non temi né il sindacato né niente, perché alla fine anche il sindacato lo sa che molti sono cani mandroni e poi quelli che si mettono le lettere sono sempre gli stessi. Vabbè. In ogni posto è così, in ogni posto a me molte volte quando entravo a lavorare mi veniva la tremarella, un periodo mi avevo preso proprio non esaurimento, però ero molto stanco, stressato. E qualcuno gli ho fatto prendere lo stress anche fuori dai cancelli. È brutto quando lavori male, perché se uno lavora sereno lavora meglio, se sta sempre bisticciando uno con l'altro. No, vabbè, ma lo stress non è dovuto solo al litigio, bene, cioè non è che tutti i giorni litighi, capita, è che il carico di lavoro, le ore di lavoro che comunque sono tante, e quindi tutto il carico sulle spalle, compresi sabato mattina che non dovrei lavorare, ma i clienti si ricordano di fare gli ordini di sabato e quindi ti devi collegare di nuovo al programma dell'ufficio per spostare persone e far venire fuori anche i nuovi viaggi, alla fine il carico non te ne rendi conto, ma stai sempre accumulando tensione, da, chiamiamola così. Però sono 21 anni e l'esperienza ce l'abbiamo, da, piano piano. Tutto l'insieme fa brodo, è normale che sia così, però già ti dà tensione, quando ti bistici ti dà molta tensione, il fatto dell'attacco in carriera è dovuto anche a quello, è la tensione che è accumulata. Buonasera. Ciao, mi sono fatto le lacrime, mamma mia, come sto? Cosa? Non ho capito, sei un beato. Sono un beato, non ho toccato niente io. Ho detto a Luca, il discorso che sta facendo Luca, tu lo sai una volta Luca se mi ha risposto a me uno, perché non ce la facevo più a sopportarlo, praticamente. Questo ci aveva in corsi che non c'è Cristo. Tu fidati che è di Porto Torres, ok? È di Porto Torres, lui lavorava a Sorso, quindi viaggiava con la sua macchina, la Porto Torres a Sorso. Un giorno ho pizzicato alle e mezza, io stavo rientrando da fare il giro di controllo, l'ultimo che facevo prima di andare via, ho pensicato uscendo, ho messo la posta, ho pensicato uscendo dal deposito, lasciato la macchina sua, è andata a porto con quello di servizio. Ok. Non gli ho detto niente. Domani quando io sapevo che arrivava, lui era molto puntuale, perché si pimbava alle 7, alle 7 meno 10, lì, io sono andato alle 7 meno 20. Ho aperto, ho sentito l'ufficio, ho sentito la macchina puntuale, anche oggi sempre puntuale. Ho detto, sei puntuale anche andartene con la macchina degli altri, vero? Non c'avevo benzina, quindi se non c'avevi benzina, lo sai che la macchina servizio non si può toccare, che c'hanno il satellitare, come lo giustifico adesso? Questo fuori zona, fuori dall'orario di lavoro. E chiaramente consultando il mio dirigente, mi ha toccato di fare le lettere di richiamo. Non so se mi ha risposto perché le ho fatte le lettere di richiamo. Lo diceva al padrino, mi faceva trasferire. E quello è il minimo. A me ne ha detto uno di tutti i colori, ma di tutti i colori, ma ce l'hai presenti i colori? Me li ha detti tutti. E lì l'ho lasciato sfogare pensando che fosse solo uno sfogo, già ribassa. Poi ha cercato chi non doveva cercare, allora mi sono affacciato e gli ho detto, io sto scendendo al lavoro e sto andando al distributore sulla camionale e ti aspetto lì e poi voglio vedere se vieni. Oh cazzo, lo sai che è venuto, però poi non è venuto per 10 giorni al lavoro. Vabbè, brutte storie quelle, molto brutte, non si deve mai arrivare a certi estremismi, però quando è troppo, alla fine non ci vedi più, ti si spegne la luce, vedi tutto nero e non ragioni più. Ma c'è la favola finale, no? Allora, diceva Gianni che mi ha subito tutti i colori lì dentro, perché lo so, si mette a ridere. La favola finale sai qual è? Che alla fine, perché continuava sempre, quando lo chiamo, guarda c'è andare, io adesso aspetto, adesso sono poi vado, arrogante, è diventato molto arrogante nei miei confronti, no? Io sono andato in direzione generale, ho parlato con il mio dirigente che aveva un bellissimo rapporto, ti viene così come così, e ho detto la soluzione, o altrimenti veramente succede qualcosa di brutto. No, oh, mi ha detto, guardi, non c'è problema, adesso lo faccio trasferire. Sai dove l'hanno trasferito? A 100 metri da casa sua, gestisce i 2 sollevamenti che ci sono al nautico, no? Via lo Scoglio Lungo, ci sono 2 sollevamenti solari, 2 sollevamenti di Piazza Colombo, vicino al porto, e il depuratore di Fontana Vecchia, no? Infatti lo sai qual è, dove c'era Mario il gommista, no? Lì, capito? Guarda che trasferimento, non è che l'hanno pulito, no? L'hanno agevolato a 100 metri da casa sua. Dispetto li hanno fatto, sì che lo so, ma Fontana Vecchia è zona, come si chiama? Monte Argilli. Dove c'è la stazione marittima nuova, quella zona lì, no, scusate, qui c'è il depuratore di Porto Torres, che prima era consortile con quello dell'ASI, con quello dell'IRI, che poi ha fatto il depuratore. Immaginati Luca, immaginati gli incontri che aveva questo ragazzo. E con tutto questo che era venuto a ritirarsi la roba dall'armadietto, ok, perché l'armadietto l'avevo ispezionato io, però non si sa mai quando ci sia roba in gran cima, l'ho ispezionato e Luca ha fatto cambiare il lucchetto dalla magazziniere, ho detto mettimi le chiavi in ufficio mio e poi quando viene mi chiami. Quando è arrivato la mattina si è incazzato, come mi ero permesso di incontrare, come mi ero permesso, anche questa roba di via, questa è roba di servizio, questa è tutta divisa di servizio, la devi lasciare qua, anzi fa una cosa, la porti a casa tua, la lavi, la riporti lavata e pulita, perché sennò a fine mese te le faccio addebitare. Ma l'avevo sciarito, detto che quando mi voleva, ma lo vado con lui, qua sono io, che problemi ci sono, cosa pensi che ho paura di lì già fa faccia. Vai, esci dal cancello, detto, perché se no lo chiudo il cancello, te lo faccio saltare. Vedi che 2 metri il cancello, te lo faccio saltare. Non c'è più venuto, ho lasciato la roba lì sporca, tutto sporco. E la maratina ha messo tutto dentro la busta, ma ecco qua, cosa faccio? La parte di tutto. Buttaci tutto quando viene il camera bombezza, ora dai. Non c'è più venuto, non l'ho mai più visto, mai. Vabbè, io porto Tose, non è che ci vado molto, ma non l'ho mai più visto. Figurati tu che elemento era, incozzato dalla testa ai piedi, minaccioso, poi un babasoni. Lascia perdere. Vado a accendere la caldaia, se mi date 10 minuti torno subito, vai già. E io, ci sono sempre le persone negative da tutte le parti. Purtroppo quando stai lavorando devi chiudere anche un occhio e basta, tutto lì. Io non ho avuto di colleghi che erano più bastardi, colleghi del principale. Sì, ma per lavoro si può litigare, perché litigo io con mio fratello che lo vedo 10 minuti la sera e capita che discutiamo, per cui la discussione ci sta, ma la discussione non deve mai oltrepassare il limite del rispetto della persona, perché poi quando vai sul personale e allora la stai mettendo su un altro piano e allora non stai più discutendo di lavoro, stai offendendo la persona e lì la persona reagisce da persona. Beh, è normale che sia così, ma ci sono persone che non hanno limiti, capito? Vanno sempre oltre e non capiscono che se dall'altra parte c'è una persona che inizia a seccare le labbra, le secca. Purtroppo nella categoria dove sono io sono tutti convinti di essere dei Mike Tyson perché fanno quel lavoro, e invece la realtà è che i camionisti di un tempo avevano le braccia grosse perché scaricavano i mezzi a mano, perché i camion non avevano servosterzo ed era tutto un lavoro di braccia ed erano uomini forti. Adesso i saguetti che pesano quanto la maglietta bagnata, però loro si riempiono il petto del loro mestiere, e noi siamo camionisti, per cui sono svegli, scaltri, furbi e forti, e tu che lavori in ufficio invece sei il gaggio che magari ha gli occhialetti quadrati e tipo i nerd, no? E non ho capito invece che le provenienze sono diverse, le esperienze di vita sono diverse. Io ho lavorato in ambienti che forse quelle persone lì li hanno viste solo nei telefilm, perché io sono stato, vabbè, non lo posso dire, ma sono stato in ambienti militari e particolari per il tipo di lavoro che facevo prima, che loro manco si immaginano. Ho lavorato dentro le carceri, per intenderci, ho lavorato alle carceri femminile di Venezia, ho lavorato nel carcere di Mezza Italia, per cui non è che dire perché lavoro in ufficio che sono gudrumito e loro invece sono più svegli di me. Ho fatto il rappresentante di oreficeria e giravo con un Mercedes, avevo la provincia di Sassari di Nuoro, tutte le gioiellerie, giravo con un Mercedes blindato e armato, quindi non è che stavo aspettando a loro essere più svegli di me. Poi ho trovato la fortuna di avere un lavoro seduto in una scrivania, ma non è perché sono seduto dietro un computer che sono un gaggio e tu che guidi invece che sei furbo. No, non sei furbo un cazzo, ne ho visto meglio di te. Cioè, esperienza in giro per tutta Italia ne ho fatto che non ne hanno manco idea. Beh, tu riesci a te le fatte normale. Poi ho conosciuto diversi tipi di persone, si è frequentato le carceri, sai come sono fatte certe persone, eccetera. Ti sai anche comportare con le persone. Ma non è solo quello, ho fatto il rappresentante, quindi non mi manca la dialettica o il lessico per affrontare un discorso, e ho capacità informatiche perché sono diplomato in informatica, quindi col computer mi muovo bene, eccetera, e ti dirò che ogni tanto per sfizio o perché mi diverte mi prendo l'articolato e mi metto a guidare lì dentro il piazzale, perché non posso uscire su strada, non ho le patenti superiori. però mi piace fare le manovre, imparando a fare le manovre. E c'è Dio Tisti, mi hanno detto, il cavolo riesce a parcheggiare l'articolato così facendo il parcheggio tutto a L. Gli ho detto sì, e questo ti dimostra che io potrei fare il tuo lavoro, ma tu il mio no. È quella la differenza. Dipende sempre come si comporta uno. Anche io ho fatto l'autista, però facevo di tutto, facevo l'autista quando non c'era da fare le consegne, stavo in negozio, eccetera. Però ho sempre rispettato tutti, sono sempre andato d'accordo quasi con tutti, quasi, perché c'avevo dei colleghi che, per carità di Dio. Guarda che ci sono stati periodi che autisti ne avevamo una cinquantina, forse erano 52 o 53, avevamo superato i 50 e quindi anche il TFR non lo potevamo lasciare in azienda, ma lo dovevamo versare in quegli enti che raccolgono il TFR, proprio perché eravamo un numero alto. Ma volevo dirti che su 50 autisti i rompiballe sono due o tre, quelli maleducati, poi con gli altri è un dare avere, perché c'è quello che ha una visita medica, mi dice lui mi dai un viaggio corto che devo uscire alle 4, oppure mi lasci libero quel giorno che devo fare, accompagnare mia moglie, quindi è un dare avere. Tu chiedi un sacrificio a loro, magari puoi partire domenica in continente che abbiamo una consegna di lunedì, però poi una volta chiedi, una volta dai, ed è un rapporto, si crea un rapporto di amicizia, con tanti colleghi ci diamo una mano nella manutenzione della barca, quando devo fare i tagliandi dei motori della barca o alla macchina, uno con l'altro, le amicizie si creano, ma ci sono sempre quei due o tre, cazzo, che sono proprio polpi stravaganti. Vieni per correre. Ma infatti alla fine sono sempre loro, eh. Vabbè. Via. Tutti i posti comunque così, dai. C'è sempre quello vigliacco, quello che ti dà la coltellata alle spalle, che vuole fare carriera e cerca di fregarti tutte le cose. Però il fatto è che sono anche gelosi uno dell'altro, perché si controllano i viaggi uno con l'altro, vedi, a te ti sta sempre mandando lì, a me non mi manda mai, chiediti il perché. Se non lo sa comportare, è normale, che quello che segue la racconta, vabbè. Adesso non ne parliamo più di lavoro, perché se no stai di nuovo lavorando. Se non mi salgono di nuovo i battiti. Che sono le 7 solo, cazzo, il paradiso in casa, ti giuro, per uno che è abituato a uscirci alle 6:30 del mattino e rientrare alle 6:30 di sera, stare in casa non ti passa mai. Cioè sono passati 2 mesi da stamattina ad adesso, 2 mesi interi sono passati in 12 ore. Beh, se non c'è niente da fare ti annui, perché sei abituato a quella routine. Io quando sono andato in pensione, il giorno che non dovevo più andare, ero un po' disperato, mi mancava il lavoro. Un cambio di ritmo così repentino, per forza, sei abituato a quegli orari, a quel ritmo, a quel tram tram quotidiano, che per forza ti viene a mancare, ti trovi un po' spaesato, non sai da dove riniziare. Ma poi già ho trovato gli ubi, le cose, insomma, mi passa a me la giornata, dico la verità, io mi piace molto la musica, canto, c'è un'app su internet dove vado a cantare, ho conosciuto molta gente, mi chiamano, se non ci sono mi scrivono, dai Gianni vieni a cantare, sai, fa piacere, dai, ho trovato molte amicizie, anche se sono virtuali, sono sempre delle amicizie. Certo che sì, mi ricordo quando babbo è andato in pensione, che invece se n'è andato giù alla casa a Platamona, e per andare farci un giorno, due giorni per fare il giardino, dice ci tratteniamo qualche notte che rifacciamo il giardino, e sono rimasti 14 anni abitando Fissia Platamone, la casa di Sassa è chiusa. A voglia che se l'ha trovato Lobby col barbecue sempre acceso e andendo con amici e parenti sempre in festa, ed è bello anche quello, godersela la pensione, altrimenti si deve lavorare per vivere, non si deve vivere per lavorare, quelli sono gli asini che vivono per lavorare, bisogna lavorare per vivere meglio e vivere e godersela. Ah beh, se tu sei recluso in casa, cioè come se fossi alle arresti domiciliari, no. Vabbè, poi io con la passione della pesca, andavo molto a pescare, Claudio lo sa, io andavo spesso, adesso poi dopo che mi hanno operato alle gambe, tutte e due le gambe, perché ho consumato i femori lavorando, tirato tra spalle, roba in genere, piedi di Roma, ho consumato dei femori e mi hanno dovuto fare l'anca da tutte e due le parti, quindi ho avuto un po' di problemi all'inizio, adesso vabbè sto bene. Però all'inizio dopo che mi hanno operato e freddo non le posso prendere, dai, prima andavo di notte, scendevo verso le 9 e mezza, alle 10, anche alle 8 a volte, e stavo tutta la notte, se ci si mangiava stavo tutta la notte. Ma dalla spiaggia? Scappa, se fuccassi oppure andavo anche al molo, prima andavo al molo, poi ho cominciato con se fuccassi. E un po' di self-cutting l'ho fatto anch'io, tanto che mi avevo comprato la tuta completa tipo sci, quella imbottita, gli stivaloni di gomma imbottiti da tipo da dopo neve per fare la notte, scendevo con i miei ex cognati, andavamo nelle spiagge in funzione del vento, sceglievamo la spiaggia in funzione del vento, siamo arrivati anche a Badesi, a Rena Maiore, e per lo più prendevamo mormore, qualche volta qualche oratta, ma mormore era la cosa che si prendeva di più. Anche io prendevo mormorone di notte, quelli grandi, anche da 500 grammi ne ho preso. Invece verso le 8 ho preso qualche oratta, anche una bella che era 3 kg e mezzo. Poi razze, dove andavo io prendevo razze e ho preso anche un polpo una volta, con la lenza, che sono io non capisco, si è attaccata là. No, razze non ne ho mai preso, la verità. Mormore e mormoroni sì, tanti, oratelle da piatto sì, pezzi grossi no, la verità no, ma era bello andare perché dopo che mettevi tutte le canne in pesca ed eravamo sempre magari in 4, in 5, per cui facevamo un bello schieramento, uno si spostava e andava a prendere le pizze per dire, e poi era la chiacchierata lì, mettevi i campanellini o gli starlight, ci si sedeva tutti assieme ed era un ciaramedo chiaramente a ridere, chi diceva la barzelletta, chi raccontava una storia, ed era bello le birrette fresche, era bello passare la serata così, poi pescavi pure, non è che non, però era bello l'ambiente. Avevamo un amico che si addormentava sempre, metteva la campanella, arrivati verso mezzanotte, lui si addormentava. E quando lo vedevamo addormentato, gli toccavamo la cara, gli facevamo suonare la campanella, ci alzava sopra il saldo, non gli poteva. E passi a Gurrelli, no? Sì, no, ma che? No, ma poi noi siamo andati anche a Grunghi, siamo andati nella punta proprio passando dove c'è Moloasi, ce l'è presente, poi invece di andare a Moloasi giri a sinistra, c'è un cantiere navale, vai in fondo e arrivi in punta a Mari di Furi, e abbiamo messo i filaccioni con le sardine a pelo di banchina, con il barattolo attaccato ogni tanto, bla bla bla bla, vino grongo, e poi facevamo a gara 1-0 e l'altro, aggettami un bilio più grosso di non fosse una gara, e ci sfottevamo così. Adesso in quella zona lì c'è il divieto assoluto perché hanno trovato tracce di benzene e non si può proprio quella zona, entrando al porto industriale e andando a sinistra, noi facevamo i bunkeraggi agli yacht, i rifornimenti col gasolio degli yacht, in quella zona lì, però hanno vietato tutto. C'era anche un vecchio inceneritore lì, giusto? Ma no, non ce l'ho presente. Io mi ricordo solo che c'erano dei cani che abbaiavano quando entravamo, perché c'era un cantiere navale. Veniva questo guardia giurato ogni volta: ragazzi, devo chiudere il cancello, cosa fate, andate via, uscite domani mattina alle 7. No, no, può chiudere, noi usciamo domani mattina perché facciamo la notte. E ci facevamo tutta la notte. C'era un angolo, ci mettevamo una tettuia sopra questo angolo e ci mettevamo sotto quando pioveva, roba del genere. Anche con la pioggia abbiamo pescato, ma prendevamo certi bagigli lì, bambilli. Adesso hanno chiuso tutto lì, è tutto vietato. Poi una volta siamo andati e non stavamo prendendo nulla, detto che è strano, lì qua si pesca sempre bene, non stavamo prendendo nulla. Allora c'è come si fanno, quando si è annoiato con la pila nel bordo del porto, controllavamo con la pila per prendere gabinetti, cercare scala. Adesso abbiamo trovato questo cordone, insieme a questo cordone c'era una rete che partiva dal molo dove eravamo noi all'altra parte del molo, quindi se entrava una barca si cagliava. L'abbiamo sollevato e abbiamo fatto pesca miracolosa. Io sono stato al braccio esterno dove attraccano le navi del carbone a Fiume Santo, il braccio esterno. Siccome è tutto cozzo, attaccato in parete lì, io non ho mai visto tante orate così giganti tutte insieme lì, attaccate mangiando cozze. Una cosa impressionante, c'era un periodo che avevano parcheggiato lì la motonave a Tara della Tirrenia, perché era in sosta lì, non aveva corse, l'hanno lasciata un paio di mesi ferma lì. E noi gli portavamo le cisterne con l'acqua potabile, no? per l'equipaggio. E quindi un giorno sono sceso anch'io per vedere il rifornimento, la fornitura che gli stavano facendo. È uscito il cuoco della tara con un medicine, col fucile subacqueo, il medicine, da fuori. È andato, si è scelto la preda, l'ha tirata da fuori, pum! Me l'ha tirata fuori e oggi ci abbiamo il pranzo. E ci ha pigliato un'orata enorme, un'orata spaventosa, cucinata per l'equipaggio. Che presa lì non aveva mangiato, manco se mi aveva imbagato. Sicuramente era un'orata diesel. Sì, io lì non l'ho mai pescato, lì a Malasi non ho mai pescato. A Monocatario sì, quando si poteva pescare a Monocatario andavo sempre, prendevo medie orate belle. E pescavo proprio con la cozza intera, c'avevo un raschetto, che è quello che usano i muratori per raschiare il muro, un raschetto così, li mettevo il coppo sotto, raschiavo, le facevo scendere nel coppo e poi le innescavo, le allargavo appena appena, le entravo la moletta e le lanciavo, ma se non avete che giubilate. Io vado al mercato. Bello Carlo. Sì, no, il mare che ti stavo dicendo io è quello di Fiume Santo, dove ci sono le due torri gru, dove scaricano il carbone. E lì era una cosa a sceglierti l'orata, ma a centinaia lì, tutte attaccate, perché probabilmente lì c'è l'acqua calda del sistema di raffreddamento dei gruppi 3-4, non lo so, ma era un... Ma a vederne tante era una cosa impressionante, è quello uscito col fucile, l'ha caricato, pum, si è scelto l'orata, l'ha tirata fuori, ma un'orata grossa, ma grande bro, che nel forno di casa mia non ci stava, per dire. E cioè, oggi ci abbiamo il pranzo, buon appetito. Caro, ti faccio entrare subito. Praticamente quello che lo chiamo pesce diesel. Non ci va, io andavo, quando andavano gli amici miei a pescare, c'erano dei vasconi, tu se riuscivi a lanciare al terzo vascone era sempre pieno di orate, la beccavi sempre, anche da 4 kg le prendevi. Ma poi andavo a cucinarle, come già successo un amico, e dice che erano male, perché mangiano le cozze che ci sono attaccate lì, e lì quando parte la nave lascia la schiuma a galla per almeno un quarto d'ora, immaginati cosa c'è sotto. Allora ti Carlo, buonasera. Buonasera, ho sentito state parlando di pesci, di pesca, io sono al mercato a pescare, alla bancarella, no, io non sono pescaiolo, ho diverse canne da pesca, ne una da traina che mi sono state regalate perché uno si aveva venduto il gommone eccetera, quindi in garage ne ho 4-5, una da traina e altre 3 canne da pesca, ma mai usate, sono appese là, prima o poi le farò fuori, capito? Quindi niente, quando mi viene voglia di pesce, le orate, già ce ne sono e se ne trovano di buone. Chi c'è? Buonasera Gianni, Luca, ci siamo sentiti anche prima, poi non so se c'è Tonino, Claudio e poi non so se c'è qualcun altro. Buonasera a tutti. Tonino si è sentato per telefonare e a quanto pare si attacca più il telefono all'orecchio perché non è più rientrato. Non so se ci sia. Poi Claudio lo stesso si è sentato per andare a accendere la caldaia. Vediamo un po' se Tonino c'è, Tonino ci sia. Io ci sono, sto regolando la caldaia, io sono qua, vi sto ascoltando, ciao Carlo. Ciao Claudio. K. E vabbè, comunque, Claudio qualche cosa l'ha vista che ho pescato io. Devo ricordare quando